volta mi bastavano due drink e le chiamavo con repeat. Più che una rubrica avevo una playlist. Le pompavo in discoteca e in macchina dopo i live. Le dimenticavo dopo un mese come Gangnam Style. Ognuna mi illudeva a fare shop. Ma da da? Pensavo fosse una gran bella scop. Scoperta? Devo indipendente ma era diventata pop. E dice se ne passavo tutte le accusò. T'ho incontrata e mi sono sentito scemo. Io ascoltavo Dance tu eri un pezzo di John Lennon. Da allora sono in fissa e me ne frego. Di quelle che appena mi vedono aprono le label. Se un disco di diamante che non è ancora uscito, ma è già il mio preferito. Radio e non ti trovo su YouTube, non ti voglio così tanto che hai fatto un milione di video, ho fatto mille canzoni, ho fatto mille beat per accorgerti che solamente tu sei la mia re. Sei la mia hit.